Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera a tutti quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo di fortuna, ma parliamo anche di determinazione nella vita e nel lavoro, perché questi sono i due termini nel sottotitolo di un libro che si intitola Il Fattore C. L'autore è Paolo Iacci. Buonasera Paolo Iacci. Buonasera a tutti. Paolo Iacci è vicepresidente di IDP, Associazione Italiana Direttori del Personale, presidente di ECA Italia, consulente di direzione, ha scritto molti libri, è stato già ospite di questa nostra rubrica e adesso si è dedicato a questo manuale, in fondo istruzioni per l'uso della vita e del lavoro, perché direi è un manuale che intreccia la filosofia, la psicologia, l'analisi sociale e in cui si cerca appunto di guardare al nostro destino, alle nostre scelte, a quello che noi facciamo secondo una logica che noi la facciamo molto spesso dando la colpa o il merito di alcune cose alla fortuna o alla sfortuna, perché anche di sfortuna si parla, ma Iacci cerca di dimostrare che in fondo sì, la fortuna forse esiste, ma qualcosa che conta di più non è solo la fortuna. Allora, che cosa conta? Paolo Iacci. Ma io inizio e concludo il libro con una citazione di Seneca, il quale disse: la fortuna non esiste, esiste solo il momento in cui il talento incontra l'opportunità. In realtà poi ovviamente la fortuna, il destino gioca sempre un ruolo nella vita, però l'importante è non fare in modo che la fortuna abbia un ruolo di deresponsabilizzazione. In fondo noi siamo sempre padroni del nostro destino. Ecco, ma esiste la fortuna o esiste anche quello che è il contrario della fortuna, cioè la sfortuna, e soprattutto esiste la possibilità di portare sfortuna? C'è qualche capitolo in cui si parla un po' con qualche aneddoto del fatto che poi in Italia sono abbastanza noti, sono abbastanza diffusi e magari anche indicati coloro che portano iella? Sì, sì, l'Italia è un paese piena di gente che crede contemporaneamente nella scienza, nella tecnologia, ma anche nella superstizione. E dentro la superstizione ovviamente c'è sempre il ruolo dello iettatore, no? Ma se noi pensiamo, nella Bibbia c'era questo racconto, no, dei due caproni, un caprone che viene ucciso per così avvicinarsi come sacrificio per gli dèi, e l'altro su cui viene il sacerdote, impone le mani, a cui noi rivolgiamo in confessione pubblica tutti i nostri peccati, poi questo caprone viene portato fuori dalla città e buttato giù dalla rupe. Con questo caprone che esce dalla città noi mondiamo tutti i nostri peccati. E lo iettatore è un po' questa cosa, iettatore deriva da iettare, gettare fuori, portare fuori, no? Noi in questo modo tutta la parte negativa di noi la mettiamo su una persona che incarna tutto la sfortuna e il male che ci può arrivare. Ovviamente sono superstizioni legate alla parte bambina che c'è in noi. Ecco, però è significativo che il libro si chiude, sono alcuni stralci da classici, e uno di questi è il famoso racconto La patente di Pirandello, in cui la patente è proprio di una persona che vuole avere la patente di iettatore. Poi, certo, come, perché poi con la patente di iettatore potrà continuare a lavorare tutta la vita, perché si garantisce il fatto che, pur di non frequentare una certa attività commerciale, il padrone del ristorante gli pagherà qualche cosa pur di tenerlo lontano. No? Ma io ad esempio metto insieme qualche pagina di Freud piuttosto che qualche pagina della Valletta. Nicola Valletta è il primo che parla dello iettatore, è il primo italiano che spiega che cos'è non soltanto la iettatura, ma la iella, ma anche che cosa vuol dire lavorare e vivere pensando che la sfortuna o la fortuna sia padrona del nostro destino. In realtà in Italia, secondo me, in questo momento c'è una specie di ideologia del fattore C, qui il fattore C ovviamente sta per fortuna, e perché lo vediamo in diversi settori, crediamo poi alla fine che che non tutto dipenda da noi, e questo deresponsabilizza. Per cui, ad esempio, noi siamo il quarto paese al mondo per spesa pro capite nel gioco d'azzardo, cosa che nessuno sa, ma è un dato gravissimo. Abbiamo 95 miliardi all'anno spesi inutilmente per gioco d'azzardo. Ogni minuto un cittadino italiano perde 181 mila euro. Ogni minuto vengono buttati via questa montagna di soldi. Piuttosto che non abbiamo il 20% dei giovani che non studia e non lavora, no? Anche qui vuol dire appellarsi al fatto che poi uno troverà lavoro soltanto se la fortuna o la raccomandazione provvederà per lui. Cioè abbiamo un atteggiamento in generale che non pensa appunto che noi possiamo essere artefici del nostro destino, ma pensa che qualcun altro, il caso, provvederà per lui. Ecco, questo è un atteggiamento appunto che rischia di diventare poi un comportamento sociale, rischia di andare al di là della singola persona per essere qualcosa che si diffonde, quasi che diventa un elemento di identificazione. Siamo un paese forse in cui si identifica molto nel fatto di dipendere dalla fortuna più che di dipendere dal merito. Ecco, il merito è uno degli elementi che forse è un po' dimenticato anche a livello aziendale, anche a livello di imprese. Tutti noi ci appelliamo e vorremmo la meritocrazia, dopodiché nella vita concreta tutti cercano di andare dietro al politico di turno, al capo di turno, eccetera, per avere il piccolo privilegio personale. Si diceva una volta vizi privati e pubbliche virtù. Di fatto questo è un paese che ancora è rimasto legato al tempo dei Borboni, al piccolo favore della corte. Io credo che noi dovremmo invece abbandonare questo pensiero un po' magico o un po' deresponsabilizzante per riprenderci in mano il nostro destino. Questo sia come singoli individui sia come paese. Ecco, questo è importante appunto, capire che noi possiamo costruire, certamente ci possono essere delle circostanze avverse, delle sfortune vere e proprie perché le circostanze non collimano con quello che noi aspettiamo, però comunque ci può essere sempre, ci deve essere la volontà di ripresa. Quindi torniamo un po' anche al libro, è un libro che è anche interessante perché ha molte citazioni, ha molti aneddoti, ha molti racconti, ha molti esempi. Cioè una citazione molto bella, per esempio, è quella di Giordano Bruno Guerri: ai gatti neri porta sfortuna essere attraversati da un'auto. Che è un po' indica un modo, guardiamo la realtà in modo diverso, cerchiamo di abituarci a non dare, di non seguire i luoghi comuni, no? Seguire un po' le superstizioni superficiali. In fondo il vero problema è che ogni tanto i gatti neri vengono investiti e travolti dalle automobili, quindi porta più sfortuna a loro che a noi. Come diceva Albert Einstein, tutto è relativo. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio, sarà ben lieto di sapere che ha ancora 7 anni di disgrazie. Cioè, allora, in questa relatività in cui noi ci muoviamo, dobbiamo pensare che certo, in fondo noi non siamo nati in un paese dove non si muore di fame, quindi questo è ovviamente una grandissima fortuna che noi abbiamo. Dopodiché forse avremmo potuto essere ancora più ricchi di quello che già siamo, e questa è una sfortuna, e così via. Di fortuna in sfortuna possiamo vedere la nostra vita come un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Il tentativo che io vorrei fare è quella di ricondurre però alla possibilità concreta che noi abbiamo tutti i giorni di vivere in maniera più piena la nostra possibilità di prendersi in mano il nostro destino. Ecco, ma questo è vero entrando un po' nel tema delle aziende, delle imprese. Lei appunto è vicepresidente dei direttori del personale. Come fa un direttore del personale a motivare le proprie persone, i propri dipendenti di un'impresa a cercare di far tirar fuori appunto gli elementi positivi, in fondo di guardare alla realtà in maniera positiva? In questo momento c'è un fortissimo disinteresse e demotivazione nelle imprese. Questo così come nella società c'è una grandissima crisi di fiducia, perché nessuno ci mette la faccia, perché c'è poca coerenza nei comportamenti tra quello tra il dichiarato e l'agito, allora dobbiamo ricominciare a ritrovare il senso delle cose che noi facciamo, anche il senso del fare impresa. Quindi dire soltanto quello che poi effettivamente viene fatto, il richiamare al mestiere, al valore della professione, ai diritti e ai doveri. Cioè io sono per tornare alle cose un po' di base, però con determinazione. E certo, a quel punto lì la fortuna poi ci riderà. Ecco, abbiamo parlato prima anche dei giovani, ma i giovani di oggi sono un po' più liberi rispetto a quelli del passato, dove appunto la figura dello jettatore, la sfortuna era un po' più nel costume popolare. Adesso i giovani, questi nativi digitali, pensano di più in maniera positiva oppure sono ancora legati alle immagini del gatto nero? Ma ovviamente è difficile generalizzare. Noi abbiamo da una parte dei giovani che, pur di riuscire, sono disposti anche a emigrare, e quindi abbiamo una quota parte di questi giovani che sono molto determinati nel prendersi in mano il proprio destino, e abbiamo contemporaneamente quelle che in Giappone vengono chiamati gli hikikomori, cioè dei giovani, in Italia si calcola che siano circa 100.000, che si stanno chiudendo nelle loro stanze, anche proprio fisicamente. C'è una parte di giovanissimi che comincia ad avere rapporti con il mondo esterno alla loro stanza soltanto attraverso la rete. Sono pericoli gravi questi. Ecco, questi sono pericoli appunto che possono essere evitati anche se gli educatori, i genitori, i responsabili delle aziende si rendono conto di qual è la realtà, e forse questo libro può essere un po' utile a capire la realtà. Speriamo anche che sia un po' divertente. Ma sicuramente anche un po' divertente, e anche questo appunto un invito a leggerlo, perché si guarda appunto con un po' di amarezza da una parte, ma anche con molta fiducia un po' ai vizi, ai difetti di questa nostra società, ma anche al fatto che ci sono ancora molte capacità, molte competenze, molte possibilità e volontà di superare proprio le difficoltà. Grazie a Paolo Iacci di essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato del libro Il Fattore C, Fortuna e determinazione nella vita e nel lavoro, edito da Guerini. Sono 192 pagine per 18 euro. Grazie anche a Peter Bescapè in regia e a Luca Cremonese in redazione. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.